e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Beh, mi fa un certo effetto iniziare alle 10.06. Ma un effetto piacevole, però, eh? È come da un letto singolo passare ad un letto matrimoniale. Dobbiamo chiedere a Giovanni Minoli se ci impresta ogni tanto una mezz'oretta. Che dici? Intanto sì. Lo salutiamo. Un bacio. Allora, intanto buon 2 esatto. giugno, una giornata di feste, anche noi festeggiamo. È vero. Con i nostri ascoltatori. Mi sono piaciute moltissimo molte prime pagine dei quotidiani questa mattina che richiamano visi di donne di 70 anni fa, quindi insomma la Repubblica compie questo compleanno appunto importante, 70 anni portati benissimo direi e ovviamente sì. Siccome è femmina, grande rappresentazione di volti femminili questa mattina sulla stampa. Ci e intanto piace. Se volete unirvi 800 24 00 24, facciamo anche la carrellata veloce degli argomenti di cui ci occuperemo oggi, che sono i tradizionali di cuore e denari. Certo, parleremo di novità che arrivano dalla ricerca, ce n'è una molto interessante, la commenteremo tra poco. Infatti. Un vaccino antitumore testato su 3 pazienti, c'è chi definisce, ne parla già del santo graal dell'oncologia, lo commenteremo con un grande esperto, Michele Maio dell'Università di Siena. Invece io, per quello che riguarda i temi di denari, nella prima parte faremo un approfondimento su questa vicenda che sta destando un po' di ansia e preoccupazione tra molti contribuenti. Stanno arrivando dall'Agenzia delle Entrate, anzi da Equitalia, appunto 160.000 avvisi di irregolarità per chi compila gli studi di settore, ma non lasciatevi invece travolgere dal panico, perché ci si può sistemare abbastanza in fretta. Questa mattina Nicola Forte, il nostro amico tributarista, ci racconterà come fare. Poi torna come sempre il giovedì, anche al 2 giugno, la nostra scuola di risparmio, Deborah, quindi esattamente. Tenetevi pronti. Parleremo di tutta la confusa situazione che c'è nel sistema bancario italiano in questo momento, le novità su Veneto Banca, le novità sul Banco Popolare e poi tutte le iniziative per tutelarsi che stanno prendendo risparmiatori, azionisti, piccoli appunto risparmiatori, per soprattutto coloro che hanno visto azzerarsi il loro patrimonio e il loro risparmio. Sono delle situazioni purtroppo molto diffuse sul territorio, in certi casi anche drammatiche. Sentiremo le iniziative che stanno prendendo alcune associazioni dei consumatori. E ci sarà sicuramente il nostro domandone, anzi oggi è festa, un domandone con 2 ascoltatori che potranno ricevere a casa sì. i nostri libri e naturalmente quindi pronte a smanettare su Google, perché esatto. è questo, ma è questo mi dà modo anche di raccontare il tema della parte di cuore. Abbiamo pensato di raccontare un po' il rapporto che abbiamo con la nostra salute. Cerchiamo sempre più informazioni, conforti, raccomandazioni, diagnosi, cure, farmaci, tutto sul web e non solo. Parleremo anche di app che diventano sempre più presenti nella vita di chi vuole tenere sotto controllo e monitorare la propria salute. La commenteremo però con dei medici in carne e ossa. Infatti, allora il nostro sommario l'abbiamo fatto, adesso però abbiamo anche la nostra consueta e nutritissima rassegna stampa. Probiotici 1, allergie 0. Gli europei di calcio sono nell'aria, anche noi di Cuore Denari stiamo entrando, per così dire, nell'atmosfera calcistica. Però battute a parte, prevenire le allergie con i probiotici non è solo una buona idea, dicono gli esperti, ma è anche efficace, soprattutto nei bambini. Il principio è semplice: l'alterazione della nostra flora intestinale è in grado di influenzare l'equilibrio del nostro sistema immunitario, da cui dipendono le allergie. Un recente documento dell'Organizzazione Mondiale degli allergologi ha messo in chiaro che esistono proprio delle evidenze statisticamente significative degli effetti benefici per tutti i tipi di allergie in seguito all'assunzione di probiotici, sebbene gli effetti maggiori si abbiano nei casi di eczema. In particolare, le raccomandazioni sono rivolte a tutti quei bambini considerati un pochino più a rischio, ovvero sono i bambini che hanno un genitore, entrambi i genitori o un fratello che hanno già un'allergia diagnosticata. Tra i vari tipi di probiotici, 2 sono quelli più indicati. Sulla nostra pagina una piccola guida per scegliere il probiotico che fa al caso nostro. È associato al concetto di speranza e attesa di qualcosa di buono. È il colore verde, che non a caso, Deborah, è anche il colore di Radio 24, no? Ed è anche uno dei colori che quando lo indossiamo ci sta meglio, con molta modestia. Sì, è vero. Ce lo diciamo sempre. Perché ci tira un po' sul colorino, vero? Il giallognolo milanese della faccia, esatto. Però da oggi il verde dà anche speranza a quei 12 milioni di italiani che soffrono di emicrania, la regina delle cefalee. Bene, uno studio condotto a Boston ha evidenziato perché esporre un paziente nel pieno di un attacco emicranico a luce verde pura, che vuol dire senza raggi luminosi di altri colori, non solo riduce la sensibilità alla luce, ma riduce anche del 20% l'intensità dell'attacco. Allora, gli esperti naturalmente hanno sperimentato gli effetti di diversi tipi di luce, rossa, blu, sui pazienti con un attacco di emicrania in corso, e hanno visto proprio che il verde ridimensiona la fotofobia e l'intensità del mal di testa. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che la luce verde attiva molto poco la retina. Allora i ricercatori stanno adesso cercando di produrre lampadine di luce verde pura, basso costo naturalmente, donna di denari, e anche occhiali da sole low cost in grado di schermare tutti gli altri colori tranne il verde. Ma in attesa che la ricerca ci aiuti a non mandare in fumo la nostra testa, voi potete andare sul nostro sito, dove stiamo continuando a pubblicare i consigli tratti dal libro Mangia sano che ti passa, del professor Piero Barbanti, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele di Pisana, un alfabeto contro il mal di testa. Noi siamo arrivati alla lettera I come Imola. Per sapere cosa c'è prima e come prosegue l'alfabeto dei consigli, andate naturalmente sulle pagine di Cuore Denari. E per finire, chi dorme non piglia pesci, ma chi schiaccia un pisolino sarebbe molto più produttivo. Deborah, quindi verrò da te oggi pomeriggio, approfittiamo che è festa, intanto che ci prepariamo la puntata di domani, prima di prendere il treno. Che faremo da Trento, bravo. Sì, prima di prendere il treno per Trento, io vengo lì schiacci, un attimo, schiaccio un pisolino. Perché? E il pisolino fa bene, perché è quello che emerge da uno studio francese questa volta, che ha stabilito come una piccola pausa per schiacciare la pennica, una siesta, il pisolino che dir si voglia, in orario lavorativo, sarebbe davvero un vero toccasana per i lavoratori e anche per il loro rendimento. Secondo la ricerca, infatti, il riposino pomeridiano favorirebbe la memoria, aiuterebbe la creatività, perché la mente è meno stressata e di conseguenza è un pochino più veloce, più reattiva. L'idea quindi è di concedersi un riposino di 20-25 minuti verso le 2, non di più, per non rendere difficoltoso il risveglio e soprattutto poi per non compromettere il sonno notturno. Ma se state pensando che per voi il pisolino non sia possibile, niente paura, arriva dal Sollevante questa volta la soluzione che fa per voi, dal Giappone, che secondo gli ultimi dati è il paese in cui si dorme meno al mondo. Arriva l'arte delle inemuri, letteralmente essere presenti mentre si dorme, quindi via libera all'addormentamento sul luogo di lavoro, a scuola, durante una conferenza, su mezzi pubblici. State attenti proprio a non essere rumorose, vi riposate, poi vivace. Ecco, Carmelo è già svenuto, prova. Esatto. Carmelo, tu non ti puoi addormentare, no, per perché carità, sennò perché è finita, già stamattina chi è... ci sostituisce, esatto, no? La mattinata è partita un po' in salita, direi, quindi se ci vieni a mancare anche tu per la dormitina, Carmelo, sono problemi. No, sono rimasta molto colpita dalla tua pronuncia giapponese. Ti è piaciuta? Sto facendo un corso accelerato. Ti ammazzo. Va bene, allora, essere presenti mentre si dorme. Passo alla rassegna stampa di Denari? Ma mi piace. Procedo, allora dovete essere all'ascolto, quindi dovete essere riposati a sufficienza per sentire le notizie di Denari di questa mattina, che partono come sempre con il racconto dell'avvio della seduta di borsa. Allora, Parigi e Francoforte sono negative, meno 0,3, meno 0,4%, Londra è positiva, più 0,29%, Milano più 0,34%. È quella che si dice giornata contrastata sui mercati finanziari, perché ci sono segni differenti, però ancora una volta monitoriamo attentamente le vicende di Milano. Oggi recuperano i titoli bancari, ne parleremo diffusamente stamattina nella nostra scuola di risparmio per capire come comportarci con questo otto volante che riguarda i titoli del credito. Pop Emilia Romagna la migliore, più 2 punti, UbiBanca più 1,54, Pop Milano più 1,52, più 0,8, Monte dei Paschi. Il miglior titolo è però Fiat, che sta guadagnando il 2,49%. Ci sono dei buoni dati sull'andamento delle immatricolazioni in maggio. Complessivamente il mercato ha visto una crescita delle nuove vendite in Italia del 27%. Il brand Fiat ha visto le sue vendite aumentare del 33%, quindi un buon tema questo, un rilancio dei consumi in Italia che passa anche attraverso l'acquisto di auto nuove. Ma i temi della giornata sono alcuni specifici, gli occhi sono tutti puntati su Vienna, dove oggi si riunisce a la Banca Centrale Europea, tra l'altro Mario Draghi parlerà non solo al termine del direttivo della BCE, ma c'è anche un altro compleanno importante a Vienna. Pensa che la Banca Centrale di Vienna compie 200 anni, quindi è più vecchia della nostra Repubblica. E poi c'è il meeting dell'OPEC, sempre a Vienna, il cartello dei maggiori paesi produttori di petrolio. Si è saputo nelle ultime ore che a quanto pare non si parlerà di tetti produttivi, ma verrà solamente nominato il nuovo segretario generale, appunto, di questo consesso. Ma è abbastanza probabile che in realtà qualche indiscrezione sul tema dei tetti produttivi, che condizionano molto l'andamento dei prezzi del petrolio, ovviamente sarà anche al centro di questo meeting. Poi, 1,5 milioni di italiani avrebbe ricevuto per errore il bonus di 80 euro, cara Nicoletta. E adesso deve restituirlo. Esattamente. Annaggia. Solo che se ne sono accorti proprio in questi giorni in cui stanno facendo la dichiarazione dei redditi. Questo bonus, lo ricordiamo, viene attribuito dal datore di lavoro direttamente sulla busta paga, mese per mese, sulla base del reddito da lavoro dipendente, e quindi sta al contribuente dichiarare la presenza di altri redditi che comportano uno sforamento dei parametri di accesso al bonus. Questo meccanismo ha fatto sì che, a causa di errori, mancate comunicazioni o anche entrate impreviste, che speriamo siano arrivate per molte persone e molte famiglie, appunto molti cittadini che non avevano diritto hanno ricevuto il bonus e adesso lo devono restituire. Quindi fra un po' con il nostro fiscalista chiederò anche che cosa succede a quelle persone, quanto devono ridare indietro, come si calcola anche, e perché poi è così frequente che si facciano questi errori. Sapevo che saresti andata lì sull'errore, ma come si fa? Non lo so, guarda, anche perché poi arrivano queste sorprese, quindi è bene comportarsi appunto correttamente, anche se molto spesso poi questi errori di comunicazione si fanno in totale buona fede. Ancora un paio di notizie velocissime. Allora, intanto pare che in questo ponte del 2 giugno sono circa 7.150.000 gli italiani che approfittano appunto del ponte per concedersi un primo assaggio di vacanze estive. Perché diamo questa cifra questa mattina? Se ne è parlato molto in questi giorni perché l'anno scorso erano circa 6 milioni, quindi a quanto pare sono più italiani in circolazione in questi giorni, e questo significa che c'è un giro d'affari turistico di circa 2 miliardi rispetto al 1,6 miliardi dell'anno scorso. Quindi buone notizie economiche che riguardano tutto il paese, sulle quali ci piace sempre puntare un po' l'attenzione. L'ultima notizia, questa è una curiosità, si chiama Saverio, nostro nuovo amico. Sì, a me piace molto come il nome Saverio. Se avessi avuto il maschio lo avresti chiamato. Davvero? È vero. Ah. Il problema è sempre la S, ecco. Per cui l'avrei poi chiamato Mario, esatto. Che è abbastanza corto come Ugo. Non so però se ti piace questo Saverio qua in particolare, ma potrebbe anche piacerti perché è il quaderno delle entrate e delle uscite familiari, il pianificatore online per le spese familiari che sta presentando la Consob, l'autorità che vigila sui mercati. La Consob lo ha presentato da poco per fornire proprio ai risparmiatori uno strumento utile per la pianificazione delle proprie risorse e dei risparmi. C'è un indirizzo internet appunto a cui poterlo trovare, e è un'iniziativa che assume senso, si legge in una nota che è stata diffusa proprio dalla Consob, alla luce degli ultimi dati sulla cultura economica finanziaria in Italia, che sono sempre insoddisfacenti, per cui magari andiamo a segnarci anche noi, facciamoci questo nuovo amico. Taccuino. Esatto, tra l'altro segnalo anche che questi temi saranno al centro domani della nostra puntata da Trento di Cuore e Denari, per cui una piccola anticipazione, un piccolo assaggio. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Vicini o lontani, l'Agenzia delle Entrate li trova sempre tutti. Allora, intanto, non lo so, guarda, ha un indirizzario veramente dettagliato e preciso. Intanto in questi giorni ne ha trovati 160.000, l'obiettivo è di scovarne 500.000. Quindi attenzione a questa nuova simpatica missiva che vi arriva da parte appunto dall'Agenzia delle Entrate. Prima, scusate, ho detto erroneamente Equitalia. È appunto l'Agenzia delle Entrate che sta scrivendo a molti contribuenti, quelli che compilano gli studi di settore, chiedendo loro appunto di fare alcune precisazioni, perché evidentemente queste compilazioni sono avvenute con delle anomalie, con delle mancanze di dati, e questo naturalmente porta, come al solito, quando si parla di richieste di chiarimento appunto del fisco che bussa alla porta, si genera ovviamente panico, molta paura, perché non si capisce se poi dietro a queste richieste di chiarimento arriveranno anche sanzioni e qualcosa, appunto un contraddittorio magari un po' più serio. Detto questo, questa notizia ci ha sollevato naturalmente come sempre la nostra attenzione, per cui abbiamo chiesto l'aiuto di un tributarista per capire quanto si devono preoccupare appunto i contribuenti che hanno ricevuto questa richiesta di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, circostanza peraltro anche abbastanza diffusa, se non riguarda gli studi di settore può riguardare anche un'altra tipologia di problema. Nicola Forte, tributarista di Roma e soprattutto esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto. Bene, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, io direi che la prima cosa da fare intanto è capire e ricordare a chi è disinteressato all'argomento che cosa sono gli studi di settore, chi compila questa non so se possiamo chiamarla forte tipologia di dichiarazione dei redditi, quali contribuenti appunto sono interessati a questi studi che, se non ricordo male, sono quegli strumenti che consentono di stimare ricavi, compensi che possono essere attribuiti appunto ad una determinata tipologia di contribuente. Quale? Esatto, Deborah, sì, sono una parte integrante della dichiarazione perché la dichiarazione è proprio lo strumento per raccogliere questi dati. Si applicano a soggetti di medie dimensioni proprio perché, essendo uno strumento basato su un metodo statistico matematico, questo strumento non riesce a stimare, quindi sono esclusi i contribuenti, le imprese, ma anche i professionisti di maggiori dimensioni che hanno superato determinate soglie di ricavi e compensi, circa 7 milioni e mezzo di euro, così come sono esclusi i soggetti di piccole dimensioni, i cosiddetti forfettari, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi, cioè coloro che hanno un ammontare di compensi o ricavi annui che non superano i 30.000 euro. Quindi non si intercettano le code, solo i soggetti di medie dimensioni. Chiaro. Quindi questi sono soggetti interessati. Allora, andiamo subito al nodo della questione che abbiamo sollevato questa mattina. Chi sono i destinatari di questi 160.000 avvisi di irregolarità? Che gravi colpe hanno? Allora, possono aver commesso o materialmente degli errori nel fornire dati all'Agenzia delle Entrate, oppure proprio è la filosofia degli studi di settore. Ci possono essere degli indici che intercettano delle anomalie, adesso tra breve magari faremo degli esempi, e quindi il fisco, in un'ottica di collaborazione, questo lo prevedeva la legge di stabilità di 2 anni fa, dice: guarda, io ti avverto, io fisco, ho verificato che tu sei un soggetto anomalo e allora spiegami per quale ragione esce fuori questa anomalia, in modo che se tu mi dai delle spiegazioni ragionevoli la questione, certo, finisce lì. Esatto, no, andiamo a fare subito un esempio di una potenziale possibile anomalia appunto che, certo, l'Agenzia delle Entrate solleva, e come possiamo poi spiegheremo anche come si fa a sistemarla in tempi rapidi senza portarci appunto l'angoscia dietro per troppi giorni forte. Certo, allora immaginiamo che io per esempio nel mio quadro di dichiarazione ho considerato in diminuzione, in detrazione delle quote di ammortamento perché ho dell'attrezzatura dell'ufficio, ho dei mobili degli uffici. Beni strumentali, no? In gergo fiscale li chiamiamo così, sì. Perfetto. Il quadro degli studi di settore mi chiede l'indicazione anche del valore dei beni strumentali. Allora è evidente che se io considero in detrazione delle quote di ammortamento sui beni strumentali e non fornisco l'indicazione dei beni strumentali del valore, c'è un'anomalia. Allora, la comunicazione, la missiva ha proprio questo scopo, cioè: ma sei proprio sicuro che non hai beni strumentali? Mi hai considerato in detrazione delle quote? E lì ecco che viene pescata la persona che banalmente non ha compilato correttamente un rigo. Quindi, è un problema, assolutamente. Poi ci può essere un esempio più interessante sul magazzino. Per esempio, un indicatore segnala che il mio magazzino, come si dice in gergo, non ruota troppo velocemente, cioè cresce. Che mi ha ruotato velocemente il magazzino, ma Nicoletta? Ruota perché mi approvvigiono e periodicamente, certo, lo svuoto per effetto delle vendite. Questo il concetto è chiarissimo, certo. Certo. Quando cresce costantemente in maniera anomala, ci sono degli indici che intercettano questa anomalia, qui non ho commesso errori materiali, allora il fisco mi dice: ma per quale ragione si è verificata questa situazione? E io posso spiegarlo tranquillamente, posso dire: guarda che alla fine dell'anno ho avuto una crescita degli ordini o mi aspetto un incremento del costo delle materie prime, degli articoli che io commercializzo, allora ho effettuato, diciamo, un approvvigionamento abbondante. Però qui vorrei dare un consiglio: tutte queste anomalie in alcuni casi, non negli errori materiali, escono proprio in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Allora, se io, intercettata l'anomalia, ho un apposito quadro nella dichiarazione, quindi a priori, prima della segnalazione del fisco, dice: guarda, ti segnalo che il mio magazzino è anomalo per queste ragioni, questo è un comportamento che riesce ad evitare a priori l'anomalia del fisco, cioè lo comunico in anticipo. Anomalie forti che vengono alla luce in fase di dichiarazione dei redditi, esattamente come quelle che stanno portando in queste ore tutti quei contribuenti che si sono visti riconosciuti l'anno scorso il bonus di 80 euro a doverlo restituire. Il principio è un po' lo stesso. No, il sistema è parzialmente diverso, nel senso che il bonus o l'obbligo di restituzione sostanzialmente può essere riconducibile a due cause. Uno, potrebbe aver commesso un errore, perché il bonus spetta lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo dell'anno non superi 26.000 euro. Allora, supponiamo che io al datore di lavoro non ho comunicato che ho altri redditi, perché il datore di lavoro non conosce tutta la mia posizione, potrei avere redditi di altra natura. Sì. Allora, se non l'ho comunicato, il datore di lavoro mi eroga il bonus e poi lo devo restituire. E quindi devo fare solo il mea culpa. Viceversa, ci possono essere altre situazioni. Ho comunicato al datore di lavoro che non avevo superato questo ammontare, poi sono fortunato, mese di dicembre ho un provento inaspettato, vendo un terreno edificabile, realizzo una plusvalenza, scrivo una collaborazione occasionale, quindi si verifica un evento che non mi faceva pensare a un superamento e qui non è una mia negligenza, è proprio certo. Il meccanismo. Quindi diciamo che a qualcuno in realtà poi la decisione di non erogare più il bonus non deve arrivare proprio come una sorpresa che piove dall'alto, magari molti contribuenti se l'aspettano altri anche. 30 secondi di tempo forte, non ho di più da poterle dare per spiegarci invece l'anomalia per gli studi di settore segnalata appunto dall'Agenzia delle Entrate, come ci si, non dico difende, ma tutela. Il chiarimento che l'Agenzia delle Entrate chiede lo possiamo fornire noi con che modalità oppure è meglio che ci pensi il professionista e commercialista che ci segue con la metodologia dell'apertura del cosiddetto cassetto fiscale? Certo, sicuramente affidarsi a un professionista, perché i chiarimenti sono chiarimenti insomma particolarmente tecnici specifici e servono proprio per evitare un controllo successivo, quindi un professionista potrà sicuramente ben assistere i nostri ascoltatori col cassetto fiscale o con apposito software che l'agenzia mette a disposizione, che i professionisti ben conoscono. Benissimo. Grazie Nicola Forte, che peraltro, anche se sta a Roma oggi, non va in vacanza, studio aperto, è andato anche in Rai stamattina alle 6.45, quindi pensa quanto era sveglio. Sono sveglio dalle 5, adesso proseguo in allora, studio. Però mi raccomando, il pisolino, il pisolino un 20 minuti alle 2, 2 e un quarto, così si oggi fa un pisolino, così oggi è bello, fresco, splendente, e apre tutti memoria. I cassetti fiscali di tutti quanti i contribuenti che segue. Assolutamente, seguirò il consiglio, farò tesoro. Grazie a Nicola Forte. Sono le 10.30 quasi, le 10.28. Andiamo in pausa, un po' di pubblicità e poi ritorniamo subitissimo con il primo vaccino approfondimento. Esatto, a tra poco. Buongiorno da Maurizio Melis. Crime and Tech è uno spin-off universitario fondato nel 2015 da Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Centro Transcrime, il centro di ricerche sul crimine transnazionale. È specializzato nella raccolta e successiva elaborazione di dati che concernono ogni tipo di attività criminale, statistiche ufficiali, ma anche articoli di giornale, rapporti della DIA e così via. Una sorta, insomma, di big data del crimine. A partire da questi dati, Crime and Tech produce strumenti e indici sintetici che forniscono una fotografia dei diversi rischi di natura criminale. Per esempio il livello di infiltrazione mafiosa di una provincia, ma anche la probabilità che in un certo quartiere si verifichino furti o scippi, reati questi ultimi caratterizzati da una certa regolarità sia nel tempo che nello spazio che li rende entro certi limiti prevedibili. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20.50. Buona giornata. Cuore e denari. Ed eccoci di nuovo insieme, Deborah, come anticipato. Pronti? Adesso sì. Diamo spazio a una buona notizia che arriva dalla ricerca. Arriva dall'Università di Mainz in Germania, dove gli scienziati hanno ideato una strategia che potrebbe rivelarsi molto promettente, addirittura rivoluzionare la lotta al cancro. Si tratta di un vaccino in grado di indurre una forte risposta del sistema immunitario nei confronti del cancro. Ma noi vogliamo commentare subito la notizia con il professor Michele Maio, direttore del reparto di immunoterapia oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria senese, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, professore, intanto grazie per essere con noi in questo giorno di festa per commentare questa notizia che tra l'altro arriva alla vigilia dell'apertura del più importante congresso annuale dei tumori organizzato dall'ASCO. L'ASCO è la Società Americana di Oncologia Medica che si tiene proprio a Chicago. Professore, anche lei è in partenza? Sì, domattina, prestissimo. Allora non le rubiamo tanto tempo, ma vogliamo capirne di più di questo vaccino antitumore che è stato testato su 3 pazienti. C'è chi già lo definisce il santo graal dell'oncologia. Ma allora, sicuramente è un approccio che è assolutamente importante, quello della vaccinazione nei tumori. Quando parliamo di vaccinazione, parliamo di vaccinazione terapeutica, quindi non è preventiva, non serve a prevenire l'insorgenza dei tumori, ma sono strategie che vengono utilizzate nei pazienti che hanno già un tumore. Sì. Nel caso particolare, io sono molto contento che il gruppo di Mainz è un gruppo con cui noi lavoriamo da anni, e quindi mi fa molto piacere, sì, il riconoscimento. Professore, noi vorremmo richiamarla perché ci perdiamo qualche, esatto, parolina, e in questi casi basta che salti una parola per poi perdere poi il senso generale quindi se lei mette giù noi la richiamiamo subito. Possiamo? Penso che i ragazzi abbiano già, sì, proceduto, è caduto, Marco, lo richiamiamo Laura, perché questa, ecco, è importante che il professor Maio ci ha dato già un'indicazione, perché noi quando parliamo di vaccino, sì, pensiamo subito a qualche cosa che previene. Uh-huh. In realtà questo è un vaccino curativo, è un vaccino che si utilizza già, no, come terapia, e adesso il professor Maio ci racconterà come sono riusciti ad attrezzare questa strategia in modo da indurre questa forte risposta del sistema immunitario al cancro. Professor Maio, eccolo qua. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Molto meglio. No, professore, perché lasciare me a commentare questa notizia era veramente un rischio, un rischio grande, però devo dire che ho studiato e il professor Maio ci ha dato delle indicazioni importanti per capire un po' cosa stanno facendo. Che cosa hanno fatto? In che cosa consiste questa novità? Ma sostanzialmente consiste nell'utilizzare acidi nucleici, quindi RNA delle cellule tumorali, ed RNA che codificano per proteine che sono normalmente espresse dalle cellule tumorali, facendo sì che queste vengano veicolate attraverso queste, chiamiamole per semplificare, particelle di grasso all'interno dell'organismo dei pazienti, e facendo sì che il sistema immunitario, una volta che ha visto queste molecole, si attivi in maniera specifica a riconoscere le cellule tumorali all'interno dell'organismo, ovunque esse siano, ovunque noi possiamo vederle con le indagini strumentali che normalmente facciamo, o anche magari in aree nelle quali ci sono poche cellule tumorali che noi non riusciamo a vedere in alcun modo e che possono essere eventualmente tenute sotto controllo dal sistema immunitario. Professore, anche in questo caso sono stati scelti pazienti affetti da melanoma. Non è la prima volta che il melanoma viene utilizzato un po' come modello, no? Tra virgolette, di studio. Ne avevamo parlato anche di recente insieme a lei nella puntata che abbiamo dedicato. È vero, proprio pochi giorni fa. Proprio pochi giorni fa, e che ha avuto grandissimo successo. Ancora gli ascoltatori ci scrivono, professore, per ricordare la sua intervista. Professore, allora perché sempre dal melanoma? Che cosa ha di caratteristico per renderlo, no, questo schema di studio? Ma il melanoma sostanzialmente è, come diceva correttamente lei, il modello di tumore solido nel quale negli ultimi 3 decenni sono state sperimentate tutte le nuove strategie di immunoterapia, per 2 ragioni fondamentali. La prima, perché fino a 3 o 4 anni fa non avevamo nulla che potesse essere utilizzato in termini di terapia per i pazienti per migliorarne la sopravvivenza. cosa che fortunatamente è cambiata. Secondo, perché in questi 3 decenni abbiamo imparato molto bene a capire come le cellule di melanoma interagiscono con il sistema immunitario del paziente. E quindi, avendo aumentato le nostre conoscenze di base, sappiamo meglio, o pensiamo e speriamo di sapere sempre meglio, come poter tenere sotto controllo la malattia. C'è da dire che il melanoma è un modello, quindi, come diceva giustamente lei, c'è da dire che l'immunoterapia si sta praticamente sperimentando in qualunque tipo di tumore, come discutevamo appunto qualche giorno fa, e abbiamo ormai a disposizione, anche attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, dei farmaci immunoterapici che hanno già dimostrato di essere in grado di aumentare la sopravvivenza a lunghissimo termine intendo 10 anni, dei pazienti con melanoma, ma questi dati li stiamo cominciando a generare anche in tanti altri tipi di tumore. Professore, tornando al vaccino antitumori, naturalmente è una straordinaria notizia che conferma che la ricerca va avanti, che avete trovato delle strategie diverse per aggredire il cancro, però gli oncologi dicono ok, tutto bene, però bisogna comunque essere cauti perché è stato testato solo su 3 malati, ma le speranze ci sono. Che cosa succederà? Il passo successivo? In pratica, no? Che cosa potrebbe essere applicato anche per altri tipi di tumore, cambiando magari solamente il cuore genetico di questo vaccino, no? Esattamente. Perché lei ci ha spiegato che sono queste, io me le vedo come palline di grasso, in realtà sono delle molecole di grasso, come delle polpettine avvelenate con un cuore che contiene queste parti, con il cuore genetico, vale a dire un piccolo RNA su cui sono scritte tutte le istruzioni per aggredire le cellule tumorali, per cui c'è questa polpettina avvelenata che taglia le gambe al tumore, anzi attiva il sistema immunitario per farlo. Allora mi immaginavo che dentro questa polpettina avvelenata, cambiando il cuore, si potessero aggredire altri tipi di tumori. Non so se il pensiero ha qualche... No? È assolutamente corretto, nel senso che la polpettina avvelenata, che può essere caricata e quindi può contenere praticamente informazioni genetiche che possono essere tipiche e peculiari teoricamente di qualunque tipo di tumore. Quindi è certamente un approccio nel suo complesso che è stato utilizzato in prima battuta nel melanoma, ma che teoricamente potrebbe essere quindi prospetticamente utilizzato in qualunque tipo di tumore. I passaggi che chiaramente adesso saranno necessari anche per questo tipo di strategia sono quelli che sostanzialmente sono assolutamente molto ben codificati. Si dovranno fare degli studi iniziali su numeri più elevati di pazienti e poi da lì capire se c'è un vantaggio sia da un punto di vista clinico, ma soprattutto da un punto di vista immunologico, per poi passare agli studi più ampi, che potrebbero essere studi di combinazione, per esempio, con i nuovi farmaci immunoterapici che abbiamo già a disposizione. Assolutamente. Professore, allora adesso noi la lasciamo andare a Chicago, perché il congresso l'aspetta, però con una promessa, mi raccomando, restiamo in contatto, perché noi vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori sempre tutte le novità e raccontarle in modo chiaro, come fa lei. Più che volentieri, dopo Chicago le potrò raccontare anche quanto di buono si sta facendo in Italia, che adesso i dati che noi presenteremo sono sotto embargo, ma certamente anche l'Italia che ha un ruolo estremamente importante a livello internazionale nell'ambito dell'immunoterapia del cancro. Vedi, io gli ho lanciato questa polpettina perché però sapevo, però non c'è cascato. Mannaggia, niente, allora niente. Aspettiamo, professore. Ma anche in finanza c'è sempre l'embargo su delle notizie belle ed interessanti, ma pazienza. Professore, aspettiamo. Però possiamo dire che ci sono dei dati molto buoni, promettenti, che arrivano dall'Italia e di cui parleremo subito dopo Chicago, appena rotto l'embargo. Grazie, professore. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti voi, grazie. E noi continuiamo. La nostra intanto abbiamo tempo anche per invitare i nostri ascoltatori a intervenire, a festeggiare oggi questa puntata speciale di Cuore Denari all'800240024. Ci sarà qualcuno che non festeggia a Roma, che starà seguendo la grande parata, no? Qualcuno che si dedica anche un po' a noi, lo troveremo. Sono già tanti gli ascoltatori che ci scrivono e ci chiamano al nostro numero verde. Molti di loro ci inviano dei messaggi. Sì. Per augurarci una buona giornata. Esatto, no, tra l'altro c'è anche invece chi contesta la cifra che abbiamo dato sulle persone che sono in circolazione in queste ore per godersi questo lungo ponte. Roberto, la notizia dei milioni di italiani in vacanza non l'abbiamo costruita noi, perché non è che li abbiamo contati uno a uno. C'è Federalberghi che comunica, ci sono le associazioni di settore e Roberto dice ci sono numerose disdette a causa del tempo. Di questo abbiamo parlato peraltro proprio in una delle ultime puntate di Cuore e Denari, ma guardi, il maltempo mi pare che sia abbastanza concentrato qui al nord Italia, altrove mi pare tutto abbastanza sereno. E già i nostri meteorini sono attivati, attivatevi, raccontateci del vostro tempo. Speriamo che queste disdette ce ne siano poche, insomma. E soprattutto se siete in viaggio, se siete parte di quei 7 milioni, anche noi faremo parte di quei 7 milioni tra poco. Esatto. Arriveremo in treno a Trento per una bella seratina, la godo. E andiamo invece a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Intanto voi raccontateci un po' la situazione. Cuore e denari. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi. Allora, chissà quanti dei nostri amici, quelli che come Roberto dicono "beh, c'è brutto tempo, non mi muovo". Anche a Firenze Fabrizio ci segnala che sta piovendo. Invece che a Savona sole e temperatura gradevole. Ottimo. Alessandra, a Roma è bruttissimo il tempo, ma verrà il sole, ma poi Roma ci vuole. Brutto. Sì, me l'ha scritta via WhatsApp un nostro ascoltatore. Migliorerà. Forse ascoltatrice. Comunque ci sarà anche qualcuno che magari non potendo fare per colpa del tempo una gita fuori porta si farà un giro sul web per cercare informazioni sia di cuore che di denari. Certo. Deborah, viaggi, sì, lavoro, ottimo, mete per vacanze, ricette. Tra l'altro penso, ho letto proprio facendo un giro in rete, dimmi, che la ricetta più cercata nell'anno scorso è stata la marmellata di fichi. Ma come mai? Non lo so, io la faccio benissimo, poi ti do la ricetta, però io te le do, tu non le fai mai. Poi la meta vacanze top sempre nel 2015, Follonica. Sì, quindi Toscana. La classifica del come fare l'ha vinta la parola le olive in salamoia, però attenzione, seguito da fattura elettronica. Ecco appunto Cuore e Denari qua subito. Allora fatevi anche voi un giro, ma devo dire che anche la salute va forte, perché secondo un'indagine condotta da GFK, oggi un italiano su due ricerca attivamente informazione relativa alla salute. Fra questi quasi la metà, e arriviamo a 11 milioni e mezzo di persone, utilizza strumenti e canali digitali per informarsi. Allora ne vogliamo parlare oggi con la dottoressa Isabella Cecchini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Direttrice del Dipartimento Ricerche sulla Salute di GFK. Allora, dottoressa Cecchini, salute e benessere ci stanno particolarmente a cuore e la vostra indagine dimostra che c'è molto interesse nei confronti di questi temi. Sì, assolutamente. Quello che osserviamo nei nostri osservatori negli ultimi anni è una crescente attenzione, un crescente interesse per i temi della salute. Salute che significa salute, malattie, problemi di salute, ma anche salute come benessere, prevenzione, mantenimento del proprio stato fisico. Il nostro ultimo osservatorio condotto, abbiamo finito la ricerca proprio il mese scorso, su oltre 2000 italiani, ci dice quanto il web sia un canale utile, facile, di facile accesso per cercare informazioni sulla salute. Quindi oltre la metà degli italiani, dicevamo, quindi oltre 25 milioni di italiani adulti cerca informazioni sulla salute, quasi la metà di questi, 11 milioni e mezzo, le cerca sul web, un canale facile, immediato, quindi dove le persone effettivamente facilmente cercano, cliccano una parola sul motore di ricerca e cercano le informazioni. Ma chi di preferenza si affida al dottor web, chiamiamolo così, no? Donne, uomini, giovani, salutisti, fobici, avete tratteggiato anche dei profili? Sì. Sì, allora innanzitutto c'è da dire che l'ultimo dato le viene da ridere un po'. Esatto. Al fobico? Perché Che cosa... In realtà la salute interessa a tutti, sempre più le donne, storicamente le donne hanno un'attenzione, una sensibilità alla salute maggiore, perché si occupano soprattutto della salute degli altri, della famiglia, a volte meno di se stesse, però di fatto culturalmente sono molto sensibili e molto attente. Un altro dato importante da dire è che oggi il 70% degli italiani cerca, ha accesso al web, quindi il dato è molto, non sono tutti, quindi manca sempre un 30%, ma la percentuale sta crescendo enormemente negli ultimi anni. Quasi totale l'accesso delle fasce più giovani e adulte, ma anche le persone più anziane oggi iniziano ad accedere al web, quindi sopra i 56, diciamo sopra i 50 anni abbiamo oltre la metà delle persone tra i 50 e i 60 anni che accede al web in generale, ma addirittura sopra i 65 anni il 30% ha accesso al web, quindi i senior, i nuovi senior sono sempre più collegati sul web e anche sui social media. Quindi la facilità di accesso al web cresce e così anche la possibilità di cercare informazioni sulla salute. Pensate che la salute è uno dei primi temi cercati sul web. Ecco. Chi sono? Quindi più donne, ma anche uomini, e sempre più uomini. Forse i giovanissimi un po' meno, quindi la fascia più giovane sotto i 25 anni, ma dai 25 anni in su diciamo che tutti sono interessati, sia chi soffre di patologie più gravi e più croniche, quindi sicuramente le persone che hanno dei problemi di salute cercano di più attenzione e informazioni, ma anche chi è più attento alla salute. Pensate che le persone più attente e sensibili alla salute, quasi il 90% cerca informazioni sul web. Quindi si cercano informazioni sulla diagnosi, la cura, le malattie, sui farmaci, ad esempio centri di eccellenza, ma anche c'è una richiesta proprio di informazioni sul benessere in senso lato, medicine alternative, diete, rimedi naturali, integratori? Sì, assolutamente. Farmaci sicuramente, farmaci... Sì. Ma anche integratori, quindi per esempio gli appassionati degli integratori, gli esperti integratori trovano sul web tante informazioni, si confrontano con altri utilizzatori. Sicuramente le patologie, quindi dalle più gravi, si parlava prima di tumori, sicuramente c'è grande attenzione e interesse ad approfondire queste tematiche, le diagnosi, quindi problemi più gravi ma anche problemi più leggeri, quindi le allergie di stagione, il tema dei vaccini, delle vaccinazioni, i problemi dei bambini, tantissime mamme si confrontano sui problemi dei bambini, così come anche problemi legati all'alimentazione, al peso. Certo, noi sappiamo d'altronde che le pagine del nostro programma in cui riportiamo i consigli degli esperti, sia di cuore che di denari, quindi perché i due temi si intrecciano e hanno tanti punti in comune, sono molto visitate. Ma dottoressa Cecchini, quindi sappiamo quanti sono, chi sono, cosa cercano, quali sono gli strumenti però preferiti, quelli più utilizzati, siti, social? Allora, sicuramente i siti, le persone vanno soprattutto a leggere e a cercare informazioni, però anche i blog e i forum, quindi ci si confronta. Interessantissimo, e questo lo stiamo osservando negli ultimi anni, l'utilizzo dei video, nel senso che tantissime persone, soprattutto affette da patologie, da malattie, raccontano le loro esperienze attraverso i video. I video diventeranno il modo di comunicare più semplice, più immediato, anche più forte dal punto di vista emotivo, quindi le persone sempre di più scaricano dei video, postano dei video per raccontare, condividere le loro esperienze di malattia. Allora, dottoressa Cecchini, intanto io vorrei invitare i nostri ascoltatori a chiedere che cosa hanno trovato nella rete interessante, magari che li ha aiutati a fare prevenzione, ad avere maggiori informazioni, a stare meglio. All'800 24 0024, voi invece se siete così, avete inciampato in qualche bufala, segnalatemelo. Ma intanto, dottoressa Cecchini, il medico è inghiottito dalla rete? Il medico in carne e ossa? Come ne esce dalla vostra ricerca? Il medico è sempre, rimane sempre un riferimento importantissimo, il primo riferimento per la salute. Le persone, e questo è un dato importante da sottolineare, le persone non mettono in contrapposizione diverse fonti, diversi canali, cercano di tenerle insieme. Quindi le persone vanno dal medico, magari ricevono una diagnosi o una prescrizione, poi vanno sul web a cercare ad approfondire, poi tornano dal medico a chiedere informazioni, a chiedere spiegazioni su quello che hanno trovato. Su questo, quindi, il tema grosso è come evolverà la relazione fra medico e paziente nella cura della malattia. Il paziente, le persone sempre più desiderose e informate, desiderose di sapere, informate, chiedono anche al medico di rispettare anche questo desiderio di informazione. È chiaro che poi il tema dell'affidabilità delle informazioni trovate sul web è cruciale e le persone lo sono sanno. Anche critiche rispetto a questo e lo sanno, è proprio per questo che poi chiedono al medico. Forse anche il medico dovrebbe riuscire nel tempo a condividere queste informazioni e a aiutare i pazienti e le persone a cercare le informazioni sul web e a cercare il giusto valore delle informazioni. Bene, allora saranno contenti, Deborah, i nostri prossimi ospiti, certo, di sapere che nonostante di tutto qua restano dei punti di riferimento centrali quando si è alla ricerca di informazioni relative alla salute e al benessere, soprattutto, come tu dicevi, di essere a cuore denari il 2 di giugno, una giornata di festa. Stavo tra l'altro cercando invece qualche dato, magari recente perché ne ho, ma non sono aggiornatissimi, su quanti italiani invece amano documentarsi per gestire le proprie questioni finanziarie appunto su web, perché anche in quel caso è un canale molto gettonato e anche per questo motivo si fanno molti errori quando si scelgono delle strategie di investimento eccetera. Poi magari ne parliamo nella seconda parte. Ma mi piace con i nostri molto consulenti. Intanto andiamo a salutare i nostri ospiti di oggi, il dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale, un po' il medico di famiglia di Cuore Denari. Buongiorno dottor Gargiulo, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, eccoci, sempre un piacere essere con voi. E abbiamo in linea con noi il professor Gianfranco Parati, buongiorno professore. Buongiorno. Ordinario di medicina cardiovascolare all'Università di Milano Bicocca e presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Professore, ho sforbiciato un po' il suo curriculum, sì, me lo permette? Lei se la ride, però insomma si guadagna fatica, ma poi arriva una giornalista qualunque e lo taglia, è così un po'. Allora, mi chiedevo se tra i motivi che spingono gli italiani a cercare informazioni relative alla salute sul web ci sia anche quello di capire meglio le indicazioni del proprio medico. Dottor Gargiulo, a lei che ne dice? Ma sicuramente la ricerca di informazioni per capire meglio di fronte a che cosa ci si sta trovando quando c'è un problema di malattia è la cosa che più porta sul web. Quindi chiarirsi meglio tutte le informazioni che magari sono state fornite nel corso di una visita specialistica, quei punti di riferimento oppure quel medichese che abbiamo utilizzato, magari qualche parola che rimane in mente, andarla a cercare poi sul web. Mi piaceva molto e trovo che sia molto interessante il fatto che ancora una volta però si confrontano con il medico in carne e ossa e chiedono ulteriori spiegazioni, ma è quello che succede dopo che hanno ascoltato magari una trasmissione di Cuore Denari, hanno ascoltato la nostra Nicoletta che parla di un problema, il cittadino che ha ascoltato sicuro poi viene da me a chiedere spiegazioni e mi dice: ma la tua amica Nicoletta mi ha detto questo, è che vero? E naturalmente a quel punto io devo confermare. Certo, allora restiamo qua, parleremo anche delle app che aiutano a saperne di più e anche mettere in comunicazione in relazione medico e paziente. A tra poco, subito dopo il nostro GR. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Questa settimana storie molto particolari a Il Falco e il Gabbiano. Il cuore di un vincente per il cavallo più famoso d'Italia, Varenne. Con Maurizio Sollieri, ospite, la storia di un mio grande amico, grande chitarrista e cantante, Massimo Riva. Un tuffo nella bellezza senza tempo di Kim Novak, la donna che visse più di due volte. È colui per il quale è stato coniato un termine, masochismo, la torbida storia di Leopold von Sacher Masoch. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da... Cordialissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Caro dottore, son qui da tre ore, paziente va bene ma solo per nome. La salute a portata di click, ma anche a portata di cuore denari. 800 24 00 24, siamo tornate, siamo in diretta, parliamo di un'indagine condotta da GFK Eurisco che ci racconta che un italiano su due ricerca attivamente informazioni relative alla salute, e fra queste quasi la metà, pari a circa 11 milioni e mezzo di persone, utilizza strumenti e canali digitali per informarsi. In linea con noi abbiamo la dottoressa Isabella Cecchini, ma anche due medici in carne e ossa, il professor Gianfranco Parati e il dottor Carlo Gargiulo. Professor Parati, l'indagine di GFK Eurisco ha evidenziato anche che è in forte crescita l'utilizzo di dispositivi e app. L'offerta è ampia e variegata, ma come sempre quando ci sono tante proposte è bene sapere utilizzarle, no? Nel modo adeguato, perché le app sono diverse, ci sono app che ci aiutano a monitorare i parametri vitali, penso alla pressione, al battito cardiaco, ma anche app che invece ci aiutano a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Sono due mondi diversi ma complementari sicuramente, professore. Assolutamente, è un mondo in sviluppo, c'è una statistica che viene dalla comunità europea, ci dice che abbiamo attualmente più di 5.000 app che in qualche maniera si occupano della nostra salute, quindi è un mondo che sta sicuramente esplodendo. Oltre alla differenza nel tipo di servizio che ci possono dare, che lei enunciava, direi che c'è un altro problema a cui dobbiamo fare attenzione, che molte di queste app sono state costruite, disegnate così per il tempo libero, per il divertimento, per la ginnastica, quello che viene chiamato il fitness, e non sono state pensate per la salute. Lei sa che quando noi ci occupiamo dei nostri pazienti dobbiamo ovviamente prestare attenzione a tutta una serie di normative a tutela dei pazienti stessi, in particolare quando si trasmettono dei dati a distanza, c'è l'importanza della privacy, della sicurezza del dato, ma anche quando si danno informazioni è importante che queste informazioni siano validate, siano verificate da qualcuno che è autorizzato a farlo, anche perché, come lei accennava prima, tutti ci occupiamo della salute in modo un po' nuovo, adesso cerchiamo di farlo. Se io come medico, ad esempio, dovessi gestire un paziente sulla base delle informazioni trasmesse con questi sistemi di comunicazione moderni, io devo essere certo che quello che viene trasmesso è affidabile, altrimenti io potrei commettere degli errori a danno del paziente. Quindi sono aspetti molto pragmatici questi su cui si sta cercando anche di legiferare in qualche modo per dare delle linee guida, degli standard da seguire, ed è un mondo molto dinamico. Sicuramente non ne siamo arrivati all'ultimo gradino in questa evoluzione. Professor Parati, ma la SIA, con la società anche europea anche di ipertensione arteriosa, in occasione della giornata contro l'ipertensione ha sviluppato un'app per tablet e smartphone, esatto, che potrei dire con il bollino blu di non una ma due società scientifiche, che permette, inserendo i valori della pressione, di visualizzare in tempo reale i suoi trend e quindi di tenere un diario digitale, no? Un po' come Saverio. Il pianificatore del bilancio familiare della Consob. Non l'avete chiamata però, non le avete dato un nome. Sì, dunque, questa è un'app che è nata proprio a Milano, tra l'altro è nata nel nostro istituto con la collaborazione di queste due grosse società scientifiche, e le abbiamo dato nomi diversi, come tutte le cose nella storia cambiano. La prima versione si chiamava Ipertensione SIA, col nome della Società Italiana di Ipertensione Arteriosa, l'abbiamo poi internazionalizzata e abbiamo avuto il supporto della Società Europea di Ipertensione, e l'ultimissima versione è presentata, come accennava lei, in occasione della giornata mondiale di lotta all'ipertensione, che è stata il 17 maggio, ha un nome inglese, visto che l'hanno tradotto in 9 lingue ormai, si chiama Ashcare, che sta per società europea. Datele un nome di donna, un nome semplice, noi ne abbiamo due da proporvi. Molto volentieri. Allora, professore, a chi serve, a chi è consigliata e come si fa a utilizzarla, nel senso, allora, dove si scarica? Anzitutto serve a tutti, perché vuole essere un servizio di comunicazione. Le due funzioni, come lei ricordava prima, di tutte queste applicazioni sono informazione e comunicazione. Sì. Quindi il primo punto è informazione, quindi con questo strumento si possono conoscere tante cose sull'ipertensione ed è fatto in modo molto semplice, molto immediato, che può dare tutte le informazioni che a volte il medico non ha tempo di dare in 15 minuti di visita, insomma. E il secondo vantaggio è la comunicazione. L'obiettivo è collegare meglio medico e suo paziente, in modo che si possano aiutare a vicenda a proteggere meglio la salute. Come si può ottenere? È facilissimo, basta andare nei soliti store di tutti i telefonini e si digitano quella lettera che le citavo prima, ESH Care, scritto così, oppure si va nel sito della Società Italiana di Ipertensione, la SIA, WI, sì. C'è proprio una pagina dove si può scaricare con un codice appropriato questa applicazione, semplicemente fotografandola col telefonino. Di nuovo basta un click. Basta un click. Basta un click. Grazie professor Paratti per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Sicuramente la tecnologia aiuta, no, a mettere meglio in relazione il medico-paziente. Io tornerei dal nostro medico di famiglia. Dottoressa Cecchini, quanto gli italiani si rivolgono al medico di famiglia? In che percentuale? Tutti. Che mediamente gli italiani vanno, il dato medio, una volta al mese dal medico di famiglia. Il medico di famiglia è il riferimento centrale per gli italiani. Direi un dato che continua e si conferma, soprattutto abbiamo un segnale in questi ultimi anni di perdita di qualche punto percentuale di riferimento dello specialista, forse anche a causa dei costi, mentre invece il medico di famiglia rimane riferimento per il paziente da tutti i punti di vista. Dottor Gargiulo, che dire? Non posso che essere entusiasta. Lo so, è una bella giornata questa, Direi senz'altro di sì, ma d'altra parte l'immaginavamo, lo sapevamo. Io direi che anche oltre al discorso della qualità, del costo dello specialista, c'è anche un miglioramento della qualità dei medici di famiglia. Sinceramente noi siamo sempre più attenti al nostro paziente, quindi demandiamo un pochino meno e siamo sempre più vicini alle problematiche del paziente. Ecco perché probabilmente aumentiamo l'apprezzamento da parte dei nostri pazienti. Allora, abbiamo detto che la tecnologia aiuta sicuramente, potrà aiutare la relazione medico-paziente, ma soprattutto con il medico di medicina generale, con il nostro medico di famiglia, dobbiamo avere una buona relazione e siamo aiutati anche dal fatto che noi il medico di famiglia possiamo scegliercelo. Ci dà un ABC di come scegliere il medico, un po' insomma il nostro medico del cuore, non inteso solamente riferito al cuore come organo, ma per un medico che ci aiuta e ci accompagna in un percorso di prevenzione, insomma diventa un po' l'amico della nostra salute. Esatto, esattamente, e quindi direi che le caratteristiche fondamentali dovrebbero essere tre per scegliere un medico. La prima, la capacità del medico, la sua capacità professionale, e per riuscire a capire la capacità professionale io credo che si possa sfruttare un po' il passaparola, il tantam fra all'interno della collettività nella quale ci troviamo, il quartiere piuttosto che la strada, il condominio, perché in realtà le informazioni che si passano da uno all'altro i pazienti generalmente coincidono e ci danno una prima indicazione, quindi quella senz'altro è la prima cosa. La seconda deve essere la disponibilità del medico e la sua empatia. Noi dobbiamo trovare una persona in grado di ascoltare i nostri problemi, in grado di rispondere ai nostri problemi, che non sempre e non solo sono problemi di salute, ma soprattutto deve essere una persona con la quale io mi raffronto bene. Certo. Io sono una persona che viaggia, che va velocemente, che ha poco tempo e ha bisogno di un medico molto pragmatico che in un minuto mi dica quello che voglio sentirmi dire. Non posso andare da un medico che magari come il dottor Gargiulo perde tempo perché chiacchiera un po' di più con il paziente, impiega il suo tempo anche per costruire una relazione amichevole e amicale con il paziente. E il terzo punto? Quindi anche lì scegliamo con criterio. E il terzo? Ancora l'ultimo degli elementi importanti è la disponibilità, cioè la possibilità del medico di essere vicino a dove abitiamo, avere uno studio che sia sufficientemente comodo, perché esistono anche degli impegni burocratici che vanno dalla ripetizione di ricetta alla possibilità di fare un certificato medico, una visita per problematiche di lavoro, via dicendo. Quindi non tanto a portata di clic, a portata di mano, di piede, tre passi. Sì. Allora, grazie al dottor Carlo Gargiulo. Salutiamo e ringraziamo la dottoressa Isabella Cecchini di GFK Eurisco, che ci ha raccontato tutti i dati di questa ricerca in modo così semplice che io capisco i dati, che mi racconti tu e che mi racconta la dottoressa Cecchini. Guarda che ce ne ho già pronti altri. Quindi grazie a tutte e due, allora. Buon 2 giugno. Arrivederci. Buona giornata. Anche perché anche il dottor Gargiulo sta a Roma, quindi anche lui stamattina abbiamo impedito di vedere la parata. Magari se la voleva godere in televisione e invece andare direttamente con lì noi. È stato con un noi. Medico di famiglia disponibile che ci ascolta. Allora, senti un po' invece a proposito di come si informano gli italiani sulle tematiche di natura finanziaria. Sì. Allora, qua abbiamo scomodato un rapporto molto importante che è l'indagine sul risparmio delle famiglie italiane che ogni anno viene fatto dal centro Einaudi. Allora, ti racconto che cosa emerge dall'ultima indagine presentata appunto qualche mese fa. Il vissuto quotidiano e la famiglia di origine continuano a rappresentare per la metà del campione interpellato per questa indagine la principale fonte di cultura finanziaria. Soltanto una parte residuale degli intervistati si informa perché interessato, 10,8%, o acquisisce informazioni specifiche grazie al proprio lavoro o al proprio percorso di studi. Il 12% degli under 34 riconosce la scuola quale canale per acquisire questa tipologia di conoscenze. Volevo andare a vedere internet. Allora, dopo lo stallo degli anni della crisi, la banca di riferimento appare il canale in grado di influenzare in misura di gran lunga maggiore le scelte in tema di risparmio. Internet, visto che parlavamo di dottor Google, viene citato da circa un quarto degli intervistati ed è un canale che fa fatica a prendere terreno in maniera significativa. Diciamo che noi per certi versi siamo anche contenti di questo, perché immagino che per le scelte di natura finanziaria forse è meglio farsi accompagnare da un referente fisico, certo. No? Però magari anche sulla salute, ecco, direi. Mi pare che la radio non venga citata in maniera sufficiente, dovremmo battagliare un po' di più per farci riconoscere come canale autorevole anche per raccogliere. Chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori, quanto vi servono le informazioni che facciamo passare da questo canale e per chiacchierare con il vostro medico e per chiacchierare anche con il vostro consulente finanziario. Se volete ce lo potete raccontare anche questa mattina, magari parleremo dei risultati del nostro piccolo monitoraggio con i nostri ospiti che tra poco vi presento. Il canale per intervenire è sempre lo stesso, è quello tradizionale telefonico, direi l'800 24 00 24. Intanto vi anticipo l'argomento del nostro prossimo approfondimento. Certo, Nicoletta, che a leggere i giornali di questi giorni e a voler rassicurare persone e famiglie si fa fatica se poi sì, contestualmente non facciamo altro che raccontare di giornate difficilissime per le banche italiane. I nostri risparmi li mettiamo tutti là e qua raccontiamo giorno per giorno di un giorno di una banca, un giorno di un'altra, di tutta una serie di cose che cominciano a preoccupare, forse anche ad innervosire, direi, molte persone, molte famiglie, molti risparmiatori, investitori. Negli ultimi due giorni le notizie che si sono susseguite stanno delineando un quadro sempre più complesso, soprattutto per un gruppetto di istituti di credito italiani, tra aumenti di capitale che sono stati fatti, che arriveranno, aggregazioni da fare e altre auspicate negli ultimi giorni anche dal governatore della Banca d'Italia. Banche risolte, perché non si voleva utilizzare il termine fallite o in bancarotta e quant'altro. Insomma, abbiamo una serie di situazioni sulle quali vale la pena rifare un bel punto della situazione, anche per provare a capire cosa ci dobbiamo aspettare, ma anche alla luce delle ultime novità su, per esempio, Veneto Banca. Daremo spazio stamattina alle iniziative che stanno prendendo alcune associazioni dei consumatori che vogliono provare a tutelare gli 87.000 e passa clienti soci di questa banca che praticamente negli ultimi giorni hanno formalmente, teoricamente, perso tutti i loro risparmi. Speriamo che non sia così, che speriamo che possano fare qualcosa per quantomeno ridurre, limitare i danni e queste perdite. E quindi questo grande lungo preambolo per dirvi che se oggi sono tutti in festa per il 2 giugno, non si prende invece nessuna pausa la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Te la balli, ti piace la nostra sigletta? Sì. Allora, che abbiamo disturbato questa mattina altri mezzi romani che abbiamo ovviamente invece coinvolto. Mezzi, sì, perché mezza festa per loro. Pietro Di Lorenzo, SOS Trader, buongiorno e benvenuto. E buona festa della Repubblica. Ecco, visto che lui è contento, vedi, di intervenire. Abbiamo poi anche con noi l'avvocato Antonio Pinto del direttivo nazionale di Confconsumatori, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per se volete intervenire. Sì, intanto dirci la vostra sul piccolo sondaggio che abbiamo lanciato poco fa, se appunto qual è il canale con il quale così andate a raccogliere le informazioni finanziarie che vi interessano e quanto vi piace anche, come dire, il canale radiofonico. Dateci una mano per fare in modo che diventi sempre più autorevole anche questo mezzo per informarsi ed interagire poi con il medico quando abbiamo bisogno, ma anche con il consulente finanziario quando abbiamo bisogno. E poi, se avete delle domande sul tema bancario così prepotente in questo questi mesi, sempre ce le potete formulare naturalmente attraverso sia il numero verde che il numero per i vostri SMS e messaggi con WhatsApp. Allora, Di Lorenzo, io volevo cominciare con lei per intanto andare a fare un punto di cronaca finanziaria proprio sull'attualità. Racconta intanto cosa sta succedendo stamattina sui titoli bancari. Sono tutti in recupero dopo, utilizzerei il termine rovesci, paragonando anche un po' quello che succede in borsa a quello che succede dal punto di vista meteorologico, rovesci temporaleschi e rovesci sui mercati finanziari, perché ieri abbiamo visto, anzi negli ultimi due giorni, rovesci pesanti sui titoli bancari, tutti in profondo rosso. Il motivo per i nuovi cali, in realtà questa volatilità ormai la stiamo raccontando da settimane e settimane, quella degli ultimi due giorni è stata attribuita come responsabilità a questo aumento di capitale che dovrà fare la settimana a partire da lunedì prossimo, perché questo almeno è un dato certo, il Banco Popolare. Allora, questa banca deve aggregarsi alla Popolare di Milano, quindi Nasce un nuovo interlocutore bancario importante, italiano, auspicato. È necessario che queste aggregazioni si facciano perché naturalmente si mettono insieme magari entità che hanno bisogno di rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale, sono aggregazioni auspicate dagli organismi, dai regolatori internazionali. Per fare questa operazione, appunto, il Banco Popolare ha, solo lui tra questi due soggetti, bisogno di ricapitalizzarsi, 1 miliardo che chiederà al mercato. Una cosa che si sapeva già da settimane, Di Lorenzo, eppure negli ultimi due giorni la notizia formalizzata, il fatto che la Consob fosse pronta a dare il via libera all'operazione, ha destato un nuovo grandissimo nervosismo tra gli operatori. Cominciamo da commentare questa notizia per poi andare anche a tutto il resto. Perché tutto questo nervosismo su una notizia già nota? Ah sì, in effetti ieri sono stati definiti in maniera, diciamo, più puntuale quelli che saranno le coordinate dell'aumento di capitale. I diritti inizieranno a quotare il 6 giugno per terminare il 22 giugno, che fra le altre cose è una data anche un po' particolare, perché come saprà il 23 c'è il referendum, esatto. Quindi un tempismo piuttosto anche qui discutibile, perché sicuramente quella settimana sarà una settimana piuttosto di tensione sui mercati. La cosa che in qualche modo ha turbato i mercati sono le indiscrezioni uscite sui principali media di un prezzo intorno ai 3 euro, quindi uno sconto del 33% circa sui valori attuali, che di fatto hanno portato il titolo ieri a toccare un nuovo minimo assoluto a 4,06 euro. Ricordo che l'anno scorso di questi tempi il Banco Popolare valeva 16,50 euro. Incredibile. Quindi nel giro di un anno, è stato perso sostanzialmente 2/3 del valore. E dunque chiedere denaro in queste condizioni non è certo la condizione migliore. Fra l'altro, ieri la situazione è peggiorata anche in virtù delle notizie sull'aumento di Veneto Banca. Sì. Che in qualche modo su quale adesso torneremo, esatto, perché lì, oltre al fatto dell'aumento di capitale che verrà fatto a servizio della quotazione in borsa, l'intervento di Atlante e tanto altro, c'è in realtà una situazione molto più preoccupante che riguarda 87.000 soci di questa banca che hanno perso tutto il loro risparmio proprio per le condizioni di questo aumento di capitale. Detto questo, Di Lorenzo, prima di andare appunto alla situazione di Veneto Banca, che poi è quella che ci interessa affrontare anche con il nostro esponente della Confconsumatori, un ascoltatore, Giuseppe, ci ha scritto poco fa: ho sentito che lunedì parte l'aumento di capitale di Banco Popolare, vorrei sapere se siete a conoscenza anche dei termini di riferimento. Al momento quello che ha indicato lei sono indiscrezioni, perché c'è un consiglio di amministrazione oggi che dà i termini precisi di questa operazione, giusto? Sì, quindi in realtà non lo sappiamo. Esatto, la tempistica dovrebbe essere questa. Questa sì, 6 giugno, 22 giugno. 6 giugno, 22, adesso stiamo aspettando, ci dovrebbe essere ora un'assemblea straordinaria alla quale si definiranno i contorni, naturalmente anche il concambio. Ma in ogni caso, diciamo, la situazione è piuttosto complicata anche in virtù delle preoccupazioni che ci sono su questo fondo Atalante, che sostanzialmente dice che diventi incapiente rispetto a quelle che sono le reali esigenze. In due parole, questo fondo Atalante ha una capitalizzazione di 4,250 miliardi, e considerando che sono già stati impegnati i primi 1,5 per intervenire sulla Popolare di Vicenza, il cui aumento di capitale è andato deserto. Esattamente. Adesso abbiamo questo di Veneto Banca, dove sostanzialmente il rischio è che prenda tutto Atalanta in virtù di quanto sta succedendo a un prezzo di 0,1 centesimi, ma non sembra che ci sia intenzione da parte di soci. Esatto, quindi Atalanta interviene all'80%, 90% anche lì. Secondo lei, se anche il Banco Popolare non avrà successo, o almeno non sarà quello auspicato, forse non andrà deserto come per quello di Pop Vicenza e Veneto Banca, ma comunque magari le condizioni non saranno soddisfatte pienamente, dovrà intervenire parzialmente anche lì? Lì Atlante? Lì secondo me aumenti capitali, il Banco Popolare non è una condizione paragonabile, esatto. assolutamente no, siamo una condizione diversa. La verità è che questo aumento di capitale in qualche modo non voleva essere fatto, e quindi prima della fusione di fatto c'è stato un obbligo da parte della BCE, che ha dato l'ok alla fusione con Popolare Milano, con la condizione sine qua non di questo aumento di capitale, certo. Quindi Non è una situazione, diciamo, auspicata, è stato un piano B necessario per sostanzialmente aumento di capitale al servizio dell'integrazione del matrimonio fra le due banche. Di Lorenzo, ci dobbiamo fermare adesso perché abbiamo i mercati, quindi racconto la complessiva giornata di borsa, poi torneremo su questi temi. Il tema Atlante è molto importante perché, dovendo intervenire su queste banche i cui aumenti di capitale falliscono, praticamente non ha più soldi per andare a gestire l'altro grande problema per cui è stato creato questo fondo di stabilizzazione, le sofferenze bancarie. E insomma, però, anche questa condizione che probabilmente si conosceva, intanto l'importante è che queste banche vengano tamponate nelle loro esigenze di ricapitalizzazione. Allora, sì, la borsa tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. Cuore e denari. La trasformazione in società per azioni consente di dare soluzione a problemi divenuti urgenti, quali la scarsa trasparenza delle decisioni degli amministratori, l'autoreferenzialità di alcune figure di vertice, la resistenza al cambiamento. Deve favorire aggregazioni che consentono di razionalizzare l'organizzazione, aumentare la redditività e l'efficienza, irrobustire il capitale. La legge ha previsto un congruo periodo di tempo, che termina il prossimo dicembre, per consentire alle maggiori banche popolari di pianificare le scelte strategiche e di attuare gli adempimenti necessari per la trasformazione societaria. Questo processo va completato celermente. Allora, era il governatore della Banca d'Italia, Visco, in una parte delle sue considerazioni finali di 2 giorni fa, avete sentito appunto un auspicio più o meno diretto a questo processo di aggregazione appunto tra le banche italiane, questa aggregazione appunto più importante che sta avvenendo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quella fra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Per fare questa operazione il Banco Popolare ha bisogno di ricapitalizzarsi per 1 miliardo, l'operazione parte lunedì prossimo, oggi il Consiglio di Amministrazione vara le condizioni, e su questa prospettiva di condizioni molto penalizzanti, d'altronde bisogna mettere sul mercato nuove azioni a forte sconto, altrimenti nessuno le sottoscrive. E allora appunto sulla scia di questa prospettiva il titolo ha perso molto terreno negli ultimi giorni, per cui abbiamo fatto un punto di cronaca su questa vicenda con il nostro ospite di questa mattina, Pietro Di Lorenzo di SOS Trader. Ma c'è un'altra vicenda delicatissima, che è quella di Veneto Banca. Anche per Veneto Banca, appunto, come sapete, non è la stessa storia appunto del Banco Popolare. Veneto Banca è una banca che, come la Popolare di Vicenza, deve trasformarsi in SPA. C'è tutta una vicenda appunto dello scorso anno legata alla decisione da parte degli organi, dei massimi organi della banca, appunto, di ridurre almeno in un paio di occasioni il valore delle azioni sottoscritte dai propri soci azionisti, e praticamente adesso necessità anche per queste banche di fare nuovi aumenti di capitale finalizzati alla trasformazione in SPA e quindi alla quotazione in borsa. Come sono andate queste operazioni? Per la Pop Vicenza, come sapete, aumento di capitale fallito, dovrebbe essere fatto quello di Veneto Banca. Proprio per farlo, nei giorni scorsi il gruppo ha fissato la forchetta di prezzo con cui fare questa operazione fra 0,10 e 0,50 euro, e questo significa che coloro che sono già in possesso di azioni della banca e ce l'hanno in portafoglio a valori che sono assolutamente molto più alti di questi fissati appunto per l'aumento di capitale, praticamente questo significa che questi risparmiatori hanno perso tutto. Si tratta di 87.000 risparmiatori sul territorio. Molti di questi li sta seguendo l'avvocato Antonio Pinto, del direttivo nazionale di Confconsumatori, che risaluto. Avvocato, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Confconsumatori molto attiva sul territorio per cercare di capire che strade intraprendere per tutelare queste persone. Allora, intanto, avvocato, le chiedo, lei personalmente quanti ne sta seguendo, e poi ci racconterà appunto cosa pensate di fare per queste persone. Sì, in questo momento stiamo seguendo circa 250 azionisti. Siamo ormai a un punto di non ritorno, nel senso che tutta una serie di ispezioni, sia della BCE, sia di Banca d'Italia, sia di Consob, concordemente hanno accertato l'esistenza di tutta una serie di gravi violazioni commesse dal precedente management di Veneto Banca. Facciamo solo alcuni esempi. Ad esempio, Banca d'Italia ha accertato che vi è una differenza di quasi 1,2 miliardi tra il numero dichiarato nei precedenti bilanci da Veneto nell'ambito dei crediti deteriorati e il numero invece reale. Cioè, cosa significa questo? Che Veneto si portava ad attivo crediti che in realtà erano nei confronti di società e imprese che erano in decozione, e quindi per legge, in base alle norme del testo unico bancario, avrebbero dovuto essere portati invece non già all'attivo ma in una posizione passiva. Ancora, sempre i tre organi di controllo hanno accertato, ad esempio, che hanno scoperchiato, diciamo, il vaso della pratica dei finanziamenti concessi in cambio, diciamo così, dietro l'acquisto di azioni Veneto Banca. Che è proprio, allora, direi, la situazione sulla quale non ho neanche un termine per poterla definire, avvocato Pinto, non so voi come la potete descrivere, però insomma quasi ricattatoria, oserei dire, perché se una banca ti dice sì, il mutuo te lo erogo, ma tu contestualmente mi devi prendere o 10.000 euro di azioni o di obbligazioni, peraltro di banche non quotate, non so come altro poterle definire. Quindi ancor peggio di aver fatto un banale investimento, dico un semplice investimento, che pur grave anche quello di un titolo che non sai come andrà perché non lo puoi avere visibile perché non è quotato, certo. Ma addirittura dietro un mutuo, una concessione di un prestito, mi sembra veramente che la situazione si definisca da sola. Avvocato, la lascio concludere, mi scusi. No, infatti, queste condotte infatti non per nulla sono anche all'attenzione, come diceva lei, perché non usiamo un termine, dovremmo usare un termine appunto di carattere di diritto penale, però al posto nostro stanno già facendo, quantomeno la Procura di Roma, sia pure ancora a livello di indagini, sia a Roma che ha Treviso, su una serie di condotte. E la cosa che ci tenia molto importante forse da dire, anche per ridare un momento di speranza, diciamo, rispetto a queste 87.000 persone, che poi ricordiamo rappresentano quasi 5 miliardi di capitale bocciato. Esatto, infatti. Non è che hanno perso 10 euro a testa, ecco. Quindi sono poi risparmi che escono anche dal giro dei consumi, quindi si creano tutta una serie di altri problemi. Allora, per dare, diciamo, un dato, almeno un piccolo messaggio positivo in questa situazione, noi riteniamo però che proprio questi accertamenti ispettivi molto rigorosi delle autorità di vigilanza consentono a questo punto ai risparmiatori di poter un po' più serenamente, diciamo, avviare delle azioni civili, delle cause civili contro la banca per ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto di acquisto delle azioni e quindi la restituzione delle somme investite. Questo per due ordini di motivi. In primo luogo perché proprio le risultanze, di cui prima facevo solo alcuni esempi, ma chiaramente l'elenco è molto più lungo, basti pensare che anche gli avviamenti sono stati azzerati per 417 milioni, quindi prima c'erano 417 milioni portati in attivo e oggi si scopre che invece oggi questi sono a zero, e quindi vuol dire che verosimilmente prima erano stati forse gonfiati. Allora, tutto questo consente che cosa? Consente di dire che di chiedere l'invalidità del contratto d'acquisto, perché è evidente che io ho risparmiatore, ho comprato facendo affidamento su una situazione che mi veniva presentata, certo, patrimoniale. Di avere a che fare con una banca sana. Esatto, ecco. Di solidità patrimoniale e finanziaria, che nella realtà già al momento dell'acquisto non c'era. È come se io mi avessero venduto una casa che in realtà non aveva l'agibilità sostanzialmente, ma io non avevo modo di, ovviamente, certo, perché magari il costruttore o il venditore mi aveva consegnato una documentazione che attestava che invece la casa avesse la piena agibilità, punto. Esattamente, e quindi sulla base di tutte queste risultanze, di tutte queste delibere Consob Banca d'Italia, peraltro stiamo ancora attendendo l'esito di un'ulteriore ispezione di Banca d'Italia, ma già quello che c'è, diciamo, è già più che sufficiente come materiale, ci consente, ecco, di poter fare questo tipo di valutazione. Allora, quindi, per riepilogare un po', Confconsumatori segue adesso circa 250 clienti, Confconsumatori ha in mano documenti che non ha scritto per sentito dire o perché qualcuno ha raccontato certe cose, ma perché avete fatto un check molto dettagliato di documentazione della Banca Centrale Europea, della Banca d'Italia e della Consob, appunto in questi documenti si raccontano dati oggettivi che i bilanci erano falsati, miliardi di crediti deteriorati che non erano riportati a bilancio, vizi palesi di collegamento appunto delle azioni presso i soci, quindi azioni collocate dietro la cessione di mutui e affidamenti, classificazione MiFID anche del tutto inadeguate, avvocato Pinto, su questo aspetto detto tutto. In realtà è accaduto questo, che c'è una sanzione esplicita della Consob molto dura, che accusa la banca di aver esercitato delle riprofilature della clientela che però appunto in un significativo numero di casi sono risultate poi proprio funzionali a poter rendere adeguata un'operazione di vendita che altrimenti non sarebbe stata coerente col profilo dell'investitore. Cioè, tradotto, che cosa significa? Significa che nel momento in cui si presentava una persona che un operatore ecologico piuttosto che un pensionato con la quinta elementare, con tutto il rispetto, stiamo facendo degli esempi per dire la persona che va a chiedere cultura, una consulenza per il risparmio, esatto, non ha gli strumenti per poter giudicare che cosa sta sottoscrivendo, poiché è noto che i titoli non quotati richiedono, come per l'adeguatezza, un profilo di rischio medio-alto. E allora venivano riprofilati con dei questionari MiFID, dove ogni tanto troviamo anche delle cose abbastanza ridicole, perché appunto di persone così che magari dichiarano di avere grande alta esperienza finanziaria, di conoscere perfettamente cosa siano gli swap e i futures. Esatto. Peraltro che neanche io potrei dire di avere quel profilo, pur facendo questo lavoro da un sacco di anni, avvocato, neanche io accetterei di essere profilata secondo quelle condizioni, perché lo swap e il derivato non so certamente bene come funzionano sul mercato. Quindi, detto questo, state dimostrando anche questo. Allora, avvocato Pinto, mi devo fermare perché ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio. Potendo dimostrare tutto ciò, adesso dobbiamo spiegare che cosa farete per queste persone, quale strada state intraprendendo. Per legge si deve fare per prima cosa un tentativo di media conciliazione con la banca, ma io immagino, come abbia voglia Veneto Banca o Pop e Vicenza per gli altri casi, di aprire adesso la porta e dire per tutte queste persone conciliamo e vediamo se possiamo restituire tutto o parte di quello che hanno perso. Detto questo, mi sembra che l'azione giudiziaria sia quella più naturale che verrà perseguita in futuro, ma con che margini anche di avere successo di queste iniziative? Vale la pena o meno intentare queste cause? A tra poco. Cuore e denari. Allora sì, una canzone allegra per parlare in realtà stamattina di un tema che di allegro non ha un bel nulla. Parliamo di tutti quei risparmiatori, soci, azionisti di Pop Vicenza, ma soprattutto questa mattina il focus è su Veneto Banca, che hanno perso nel giro di pochissimi minuti praticamente tutto quello che avevano nel loro piccolo portafoglio, magari risparmiato con anni di fatica e sudore. 87.000 persone sul territorio soci appunto di questa banca, che dopo i parametri che Veneto Banca ha definito nei giorni scorsi per fare il prossimo aumento di capitale, che probabilmente verrà sottoscritto interamente dal Fondo di Stabilizzazione Bancaria Atlante, appunto sulla base di queste condizioni significa che le azioni che hanno loro in mano adesso sono totalmente azzerate. Prima di proseguire con il nostro avvocato Pinto, volevo sentire Pietro Di Lorenzo, che idea si è fatto di tutta questa situazione, lui come era anche come trader da una parte, anche come consulente di come dire, questioni finanziarie per, immagino, una pletora di piccoli risparmiatori sul territorio che magari vi chiedono, no, qualche consiglio su come comportarsi adesso con i titoli finanziari. Di Lorenzo, c'è una grande preoccupazione, questo è inutile negarlo, però la cosa che mi sento di dire è che bisogna avere la sensibilità anche la capacità di non farsi prendere dall'emotività, in quanto ogni situazione è una situazione a sé. Abbiamo assistito, prima sentivo delle cose aberranti che sono successe in alcune banche, ma è anche giusto dire che ci sono altre banche che invece sono in una situazione assolutamente diversa, e quindi bisogna fare lo sforzo in questo momento di avere la lucidità di selezionare quelle che sono le migliori opportunità, certo, del settore, e non generalizzare dicendo banalmente che tutte le banche sono in una situazione, certo, analoga. Il problema è che nel caso di OPAP Vicenza o Veneto Banco o altre piccole banche, magari del credito cooperativo italiano, sono quelle che sono proprio vicinissime alle persone. Quando ti tradisce la banca del territorio di Lorenzo, la scottatura è più profonda, più dolorosa, è difficile risollevarsi, anche perché, per esempio, ieri leggevo la storia di quello che è successo in questo piccolo paese, in cui praticamente risparmio medio delle persone, intanto era quasi tutto concentrato nello sportello di Veneto Banca, e poi il reddito medio pro capite delle persone di questo piccolo paese del Piemontese, mi pare, se non mi ricordo bene, lo devo andare a ripescare, è di circa 16-18 mila euro l'anno, quindi immagini anche di conseguenza quanto poteva essere il risparmio di queste persone, tutto completamente concentrato in azioni di Veneto Banca, che era l'unica banca operante lì. Chiaro, su questo non c'è dubbio, e considerando anche che veniamo da 4 salvataggi di banche che oltretutto erano sul territorio, analogamente a quanto è successo con Veneto Banca, quindi Banca delle Marche e tutto il resto che sappiamo. Il paese è Caprezzo, tra l'altro, chiuso, ecco, l'ho trovato. Certo, la situazione, soprattutto la sfiducia che si tende a avere verso le banche è evidente, però qui bisogna fare uno sforzo di lucidità e cercare, come dicevo, di individuare quelli che sono, nel caso di investimenti, i titoli che invece presentano prospettive diverse. Ricordo per esempio che ci sono titoli come Mediobanca piuttosto che Mediolan, che da inizio anno, nonostante l'indice italiano sia in ribasso del 16% circa, hanno delle performance positive. Quindi hanno dei coefficienti di patrimonializzazione estremamente alti. Non sono suggerimenti di investimento, lo vogliamo dire. Questa è l'analisi del trader che spassionatamente ci dà il suo punto di vista. No, perché poi sa che qua vengono subito interpretate un po'. No, semplicemente segnalato che da inizio, certo, anno hanno una performance positiva, tutto qui. E sì, questo evidenzia il fatto che mentre ci sono titoli come Banco Popolare che stanno perdendo il 70% inizio anno, Monte Paschi il 50%, ce ne sono altri invece che in virtù di una situazione diversa stanno performando in maniera diversa. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di evitare di buttare tutto nel cestino, ma nei propri portafogli cercare di individuare le situazioni peculiari di ogni titolo che si possiede, quindi evitare di tirare tutto via il portafoglio bancario, ma magari tenere solo quelle storie che presentano invece prospettive interessanti e diverse, perché nei momenti di volatilità spesso ci sono le opportunità, e questo è una cosa da rimarcare, e così come bisogna evitare di essere ingolositi, certo, da situazioni a prezzi molto bassi rispetto al passato. E ricordo, un prezzo molto basso rispetto a un anno fa non è di per sé una buona idea per investire, un'occasione d'acquisto, esatto. Allora, il tema è che i titoli finanziari li dobbiamo veramente maneggiare con molta cura. Modesto da Milano, buongiorno, mi fa piacere sentirla perché la voglio fare interagire con l'avvocato Antonio Pinto della Confconsumatori. Modesto, benvenuto. Buongiorno avvocato. Sì, volevo solo intervenire per dire che noi abbiamo fatto delle verifiche, come siamo Associazione Nazionale dei Piccoli Azionisti delle Banche Popolari, e i risparmiatori che hanno, lei sa benissimo avvocato, che bisogna firmare il MiFID per comprare, cioè, lo abbiamo delle detto azioni poco fa, sì. Esatto, però ci sono stati dei risparmiatori che hanno detto che il MiFID non gli è stato letto integralmente, quindi l'hanno fatto firmare e basta, sì, e non hanno messo le crocette. E quelli per noi sono clienti che possono integralmente riavere i loro quattrini. Certo. Ma voi che iniziative state prendendo, Modesto, appunto? Come fate ad avere questa certezza che vi diano ragione integrale? Ragione integrale perché abbiamo già parlato con dei legali, con dei magistrati, ci sono le nullità del contratto, c'è già giurisprudenza in tal senso, l'avvocato potrà confermare. Quindi l'unica cosa che non si può fare la class action, e quindi è questo l'unico problema oggi che abbiamo in Italia, perché il piccolo risparmiatore che ha comprato 5.000 euro di azioni o che ha poche migliaia non è uguale di a quello azioni. Che ne ha comprate 25.000, bravo, quindi bravo. Non c'è omogeneità praticamente delle persone che si possono rappresentare in class action, questo è il motivo per cui da noi non c'è. Così rispondete alla domanda di Paolo, che voleva che chiedere perché. Proprio perché non avviano una class action. Sui temi finanziari la class action appare quasi impossibile. Grazie Modesto. Avvocato Pinto, chiudo con lei, ci mancano 3 minuti di tempo, le chiedo allora che cosa farete da domani, so che siete pronti a notificare, presso quale tribunale i primi casi, con che criterio peraltro sono stati scelti anche? Guardi, allora rispondo, approfitto solo per rispondere al volo, perché la class action effettivamente non si può fare, sarebbe inammissibile, perché in Italia è una legge pessima, è scritta davvero male, però in compenso la cosa che si può fare anche per minimizzare i costi è quella di fare un'azione collettiva con gruppetti che da 5-10 persone, dico questo come per non caricare poi un unico giudizio di troppe carte. Però è chiaro che noi da domani, proprio domani, anzi, notifichiamo le prime 10 domande di mediazione obbligatoria, che è un passaggio propedeutico all'avvio dell'azione della causa civile, proprio perché riteniamo che sia per le ragioni che dicevo prima, sia perché in molti casi, come diceva il signor Modesto, abbiamo riscontrato delle poi violazioni sulle singole posizioni di norme, di adempimenti che il testo unico della finanza impone a una banca quando deve vendere un prodotto finanziario, e quindi abbiamo casi in cui ad esempio non è stato fatto sottoscrivere per dimenticanza ovviamente il contratto di negoziazione, il contratto quadro, quello di negoziazione titoli, o casi in cui ad esempio nell'ordine ci si è dimenticati di far sottoscrivere il conflitto di interessi, perché siccome Veneto Banca vendeva un proprio prodotto e quindi era emittente del prodotto che vendeva, aveva l'obbligo anche di far proprio sottoscrivere esplicitamente al risparmiatore la consapevolezza che era una vendita eseguita in conflitto di interessi. Qualche volta se ne sono dimenticati, quindi anche questo è un vizio che poi cagiona l'annullabilità. E li abbiamo, ovviamente puoi immaginare, diciamo, si sceglie sempre di partire con i casi che si ritiene essere più solidi, certo. No? Anche per cominciare a fare giurisprudenza, diciamo, partendo in positivo, e quindi questo va bene, è una consuetudine processuale che ovviamente abbiamo imparato in questi 15 certo. anni. Diciamo, ma per la partenza della media conciliazione, questi primi casi che notificherete domani, entro quanto tempo poi per legge dovete avere la prima risposta, se viene accolto o meno? Guardi, diciamo, perché poi sarà l'organismo di mediazione che fissa un'udienza nella quale convoca anche la banca, e quindi vedremo se la banca aderirà o meno, si presenta anche e aderisce. Lo dico che quantomeno aderisce al tentativo, e vediamo se ci vengono fatte proposte. Ma poi con tutti questi cambiamenti che stanno avvenendo anche insieme alla banca, mi chiedo quale interlocutore possano trovare, o se non ne trovino invece come scusa il fatto che ci sono tutti questi cambiamenti, quindi non c'è più l'interlocutore, visto che sono fatti del passato, appunto, adeguato a rispondere al tentativo di media conciliazione. Ma ne ritorneremo a parlare, avvocato Pinto, ho la sensazione che la risentiremo di nuovo presto. Grazie intanto per essere stato con noi, grazie anche a Pietro Di Lorenzo di SOS Trader, hanno risposto ai nostri SOS questa mattina del 2 giugno, no Nicoletta? E hanno fatto bene perché sono stati con noi insieme ai nostri ascoltatori, che ringraziamo per l'ascolto e per i messaggi che ci avete inviato. Torniamo domani, saremo in diretta da Trento con una bellissima puntata. Buona giornata a tutti.